fermo. Poi si calma, od arrendesi ai colpi di bastone, ed il pubblico applaude ridendo allegramente. O seretto sul serio sorprendente, scusatemi,